24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Ci siamo, buongiorno cari ascoltatori, riparte una settimana di 24 mattino. Sono qui, ho recuperato dei barlumi di voce nel weekend e quindi alle 6:34 minuti con Filippo Aureggi in regia, con la nostra Miriam Lucchetti in redazione, è tornata al di là del vetro. E allora siamo prontissimi, siamo in diretta finale 9, siamo pronti. Filippo, tu che c'hai i muscoloni come l'alpino, no? Tira su questa saracinesca, così il bar è ufficialmente aperto. Il caffè volentieri a tutti quanti. Come sempre, il caffè a tutti quanti offre Nicole Minetti con noi. No, state calmi, non c'è con noi Nicole Minetti. Ci sono banalmente Alessandro Giglioli, buongiorno. Buongiorno. Mi dispiace, hai creato un'aspettativa che abbiamo deluso. Così. Infatti, il suo piovono rane, Alessandro Giglioli dell'Espresso. Saluto anche Bimbo Alieno, tornato il lunedì, così ci accontentiamo di Bimbo Alieno, Alessandro Giglioli. Bimbo Alieno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Preferivi Nicole Minetti qua? Preferivi Nicole Minetti qui presente? Preferivo Nicole Minetti lì, ma... Mancano sette giorni al vitalizio di Nicole Minetti. Alessandro Giglioli, ti dà fastidio questa cosa? Perché adesso c'è un po' di accanimento, anche adesso come se tutti i problemi fossero Nicole Minetti. Ti dà fastidio ufficialmente il vitalizio di Nicole Minetti, sì o no? Guarda, devo essere sincero, è antipopolare, è veramente l'ultimo dei miei problemi, mi danno molto più fastidio le famiglie senza reddito. Ma infatti, ma chi se ne frega? Ma io dico, cioè, se la politica riuscisse a fare un qualcosa di buono, cioè eliminare tutte queste cose da qui al futuro, a me andrebbe bene, cioè, non andrebbe bene così, cioè, andiamo al ribasso, accontentiamoci delle piccole cose. Il problema è che non elimineranno neanche questo molto probabilmente, o no? Ma la politica dovrebbe servire a migliorare la cosa comune, comunque la vita comune, la vita dei più dovrebbe servire magari anche un pochino a limitare le iniquità sociali, almeno la mia visione politica, poi ognuno ha la sua, dovrebbe servire a farci stare un pochino meglio. Quello che sta succedendo, che sembra chiaro, e la Minetti, come dire, è un punto in tutto questo, è la fine di un sistema politico nel suo complesso, no? Cioè Formigoni, Veltroni, Berlusconi, tutti questi che stanno cadendo, finiscono tutti i nomi, non è colpa mia. Sì, infatti. Tutti questi che stanno contemporaneamente lasciando... Te la sei studiata, perché chiaramente... No, è venuta a cadere, a quest'ora non riesco a studiare niente. Questi nomi, vabbè. Se ne stanno tutti andando, qualcuno volontariamente, qualcuno a calci, è la fine di un sistema che da 20 anni più o meno ci tiene sotto scacco. Insomma, comunque, è il sistema politico italiano... La Minetti ne è soltanto l'ultimo epifenomeno, sì, se posso usare questo parolone. No, a proposito di questo, allora, visto che hai citato Unoni, Formigoni ancora oggi è sulle prime pagine dei giornali, a parte che due quotidiani titolano con Repubblica e il Secolo XIX Veltroni addio al Parlamento, cioè la notizia più importante in Italia e nel mondo evidentemente ieri era questa. Comunque, allora, Formigoni, Roberto Formigoni, voglio far sentire, è un Roberto Formigoni che ormai è quasi certo, insomma, si voterà in aprile, ma lotta. Sentite ieri col nostro amico Alessio Vinci, che era ospite da noi venerdì, sentite cosa è successo. Ahimè, ho 65 anni, tutti gli anni cerco di andare in vacanza, 15 giorni d'estate, una settimana d'inverno. E non c'è niente di male, se è d'accordo, che lavora con la Regione Lombardia, paga parte di questa vacanza. Non ha pagato parte di queste vacanze. Se lei torna a dirlo, si prenderà la querela anche lei. Stia attento. Se lei torna a insinuare... Non lo dicono i magistrati, è questo che dovete capire voi signori della stampa e della televisione. Ah, sentite come combatte, è un po' come lo storico Formigoni che un mese fa rispose a me, no, sulla questione delle vacanze. Beh, neanche mi ha fatto fare la domanda. Roberto Formigoni, buongiorno. Non le rispondo, ho già risposto tante volte. Non risponde alla questione delle vacanze. La tolgo dall'imbarazzo di fare la domanda di un concorrente che poi il suo editore si arrabbia con lei e dice: ma fai pubblicità a noi e non fare pubblicità alla stampa concorrente. Accidenti, poi mi licenzia magari. Allora niente, allora fermiamoci qui. La ringrazio. Le risparmio il licenziamento. Grazie. Vabbè, sono ancora qua, devo dire, Alessandro Giglioli, Bimbo Alieno, sono ancora qua. Alessandro, inizierei da te, allora, che dobbiamo... Isterico solitario in finale, lo definirei, no? No, ma io non lo so, cioè, su questa cosa lui combatte in una maniera incredibile. Non è l'unico, è fuori dal mondo. È ancora convinto, non ha capito che c'è successo qualcosa negli ultimi 2-3 anni in questo paese. È successo più negli ultimi 2-3 anni che nei precedenti 15, non ha capito. Non ha capito. Bimbo Alieno, su questo hai un parere non so se è politico, anche a chi abbia dei riflessi economici su quello che può essere, no? Come guarda tutto il mondo delle imprese, il mondo dell'economia, il mondo della finanza, questo impazzimento della politica in questo momento? Ma vabbè, sull'aspetto, diciamo, legato a Formigoni, il discorso economia e finanza, direi che per il momento io non ho visto ancora... così, deduzioni. Quello che mi viene da dire è che, insomma, tutto questo accanimento verso Formigoni, eccetera, intanto è l'unico che in tutto questo bailamme politico a livello regionale, provinciale, nazionale, che non è stato beccato in festini con donnine, eccetera, quindi comunque... Beh, almeno quello, voglio dire, sappiamo che il suo, no? Il suo rigore morale da quel punto di vista, no? Però questa storia delle vacanze, sentite ieri che cosa ha detto Alfano, perché i riflessi politici su questa cosa ci sono in maniera molto molto chiara, cioè ormai è chiaro, la Lega ha deciso bisogna andare a votare, e sentite Alfano, il segretario del PDL, cioè il partito di Formigoni, come, che espressione ha usato. La responsabilità della scelta sulla data delle elezioni è del presidente Formigoni. Noi siamo contrari ad ogni forma di accanimento terapeutico e pensiamo che il presidente Formigoni debba scegliere liberamente la data delle elezioni per il bene della Lombardia. Insomma, accanimento terapeutico, siamo contrari all'accanimento terapeutico. Giglioli, come dobbiamo interpretare questa frase? Che poi lo stesso Alfano ha detto, no, ma noi non abbiamo scaricato Formigoni, per carità, però accanimento terapeutico è un po' forte, no? Come... Beh, vabbè, che sia politicamente morto, in coma, diciamo, senza dar segni di vita, è evidente. Era evidente tutti già da diversi mesi. Fa piacere che adesso sia evidente il PDL. Il problema... E qui, se voi, torniamo anche alla questione dei costi della politica, che so che ti è cara, Alessandro. Il problema è che gran parte della politica capisce che alcune cose sono successe troppo tardi. No, per esempio, i tagli alla politica che con un'estrema timidezza cominciano a fare, no? È troppo tardi, adesso si capisce che li stanno facendo a furore di popolo, e quindi in qualche modo finiscono per ammettere che prima, scusa l'espressione demagogica, mangiavano troppo. La stessa cosa riguarda Formigoni, era almeno 3-4 mesi se non un anno che, al di là delle vacanze, ma per la gestione diciamolo pure clientelare di tutta la regione, che si era trasformata un po' in una, per quanto riguardava gli appalti, per quanto riguardava il giro di denaro, si è trasformato in qualcosa di simile a quello che era il comune di Milano negli anni 80 con i socialisti. Questa invece è diventata con le cooperative Celline, con gli amici. Cioè una nuova Tangentopoli, come ha detto il ministro Severino, nuova Tangentopoli è anche peggio. Questo ha detto il ministro della giustizia Severino. È un po' troppo tardi. Non riferito alla Lombardia, in genere, riferito alla politica attuale. Sì, tra l'altro, io vi voglio far sentire in sottofondo come Formigoni è stato accolto a Lecco, perché... c'è stata una in questi giorni è andato a Lecco una manifestazione, lui ha detto ma no, la Lombardia che mi vuole bene è qui, mi accoglie in questa sala, c'era tanta gente, eccetera, ma fuori a Lecco la gente premeva, scene che ricordavano, ecco, quelle di no, le monetine. È stato anche spintonato Formigoni a un certo punto. C'era chi lo salutava, Roberto. Ecco, invece altri che lo contestavano. Sta di fatto che oggi Formigoni, in un'intervista al Corriere della Sera, dice: è la solita Lega inaffidabile e ribaltonista, quella dei ribaltoni, quella che farà cadere tutto. Vabbè, questo per quel che riguarda la politica. Magari sulla politica, poi sulla questione Veltroni ci torneremo un attimo. Io però vorrei introdurre questo argomento, lo farei con Bimbo Alieno, la questione economica. Bimbo Alieno, sai cosa ha detto il ministro Grilli, intervistato oggi da Repubblica? Ha detto questo: la legge di stabilità e quello che abbiamo fatto, cioè tagliare 2 punti IRPEF, è vero, abbiamo aumentato l'IVA, però tutto questo piace in Giappone, al Fondo Monetario Internazionale, a Christine Lagarde, a tutti. Solo in Italia ci contestano. Nessuno è profeta in patria. Allora, prima della pubblicità, dobbiamo considerare un bicchiere mezzo pieno il taglio di 2 punti IRPEF o un bicchiere mezzo vuoto il fatto che ci hanno aumentato l'IVA quando ci dicevano che la spending review serviva per non aumentarla? Come dobbiamo vederla? Guarda, mettiamola in questi termini. Un punto di IRPEF per i redditi più bassi vale più di un punto di IVA, per la banale ragione che il reddito complessivo non può non essere più grande del totale dei consumi, quindi l'1% di qualcosa di più grande è un beneficio maggiore del danno. È chiaro che, voglio dire, hanno parlato fino a poche settimane fa dell'intenzione, della volontà assoluta di riuscire a non procedere all'aumento dell'IVA, e quindi è normale che i contribuenti italiani non siano molto contenti di questo ulteriore aggravio. Chiamali poco contenti, voglio dire, avevano detto faremo la spending review così scongiureremo l'aumento dell'IVA a luglio, adesso dicono no, ma è solo dell'1%, all'inizio avevano detto che era del 2%, sì, ma a un certo punto avete detto che era dello 0%, no? E quindi, esatto. E quindi non è che gli italiani sono proprio fessi, o no? Sì, esatto, appunto, loro hanno manifestato più volte l'intenzione di riuscire a evitare di incrementare l'IVA, anche se il progetto iniziale era 2 punti e l'aumento finale poi è stato di 1 punto, però io credo che la scontentezza sia determinata principalmente da un'idea che forse l'impatto poi complessivo di questa cosa, cioè l'aumento da una parte dell'IVA e la riduzione dell'IRPEF per i redditi più bassi, possa portare a un risultato modesto per le casse. Tra l'altro Grilli ha detto la solita frase, il solito mantra: i mercati vogliono capire se l'Italia rispetterà le riforme di questo governo. C'è il mantra, il Moloch dei mercati che ci guardano. Caffè. Grazie. Ma 5 caffè, veloce! Non lo fare acqua! E allora, al nostro bar di Radio 24, siamo con Alessandro Giglioli dell'Espresso. Piovono rane, il suo account, se volete, su Twitter, eccetera. Ovviamente, bimbo alieno, è così, bimbo alieno, lo trovate su Twitter. Alessandro Giglioli, ti devo fare una domanda proprio da bar. Ma questi tecnici, allora, su questa cosa, la legge di stabilità, aumentano l'IVA, però avevano detto che era 0, però avevano detto prima che era 2, quindi potremmo vederla bene. Insomma, stanno facendo tutto bene per il bene degli italiani, oppure sobriamente ce lo stanno mettendo in quel posto? Ma guarda, io credo che questi tecnici non abbiano capito una cosa fondamentale, che non si può uscire dalla crisi se si continua a fare la lotta di classe. Questo ce lo insegna proprio la storia. In tempi di lotta di classe non si esce dalla crisi. E quello che sta avvenendo in Italia è una lotta di classe dall'alto verso il basso. In assenza di coesione sociale, in assenza di una maggiore distribuzione delle risorse, sì, è inevitabile che dalla crisi non usciamo. Sì. Io ho rispetto personale verso gran parte dei ministri del governo, perché dopo, voglio dire, i nani, le ballerine, i buffoni, i bugiardi che abbiamo avuto con il governo Berlusconi, questi sono per lo più signori integerrimi, sobri, come dici tu, e quindi rappresentano un salto di qualità. È una destra educata e quindi rispettabile. Finalmente in Italia abbiamo, come dire, con una certa chiarezza capito cos'è la destra. Credevamo che fosse Berlusconi la Santanchè, che invece era soltanto una cricca, e invece abbiamo al governo una destra educata per bene. Oggi c'è un Giglioli scatenato, No, vabbè, no, che cosa hai detto? Cricca. La mia opinione, Nani, me l'hai chiesto, no, io certo, ballerini, buffoni, no. Se posso. No, è chiaro. Però c'è questa lotta di classe. Bimbo alieno, la noti anche la stessa domanda la faccio anche a te, insomma, stanno facendo tutto per benino oppure è un modo molto sobrio sempre per quella roba là che ho detto prima? Ma per benino sì, non bene, ma benino sì. Naturalmente, se per dire il taglio di un punto di aliquota IRPEF fosse stato pagato dall'aumento di 1 punto di aliquota IRPEF per i redditi più alti, probabilmente dal punto di vista lotta di classe avremo qualche no, perché qualche sai strumento. Oggi per esempio, se prendi in mano il Corriere della Sera, c'è un altro articolo di Alesina e Giavazzi in editoriale di prima pagina. Giavazzi sappiamo è quello che deve anche gestire i sussidi alle imprese. Giavazzi a un certo punto nell'editoriale dice: ma scusate, ci sono 10 miliardi di sussidi alle imprese che anche Confindustria ha detto vi rinunciamo se ci riducete il cuneo fiscale. È da 4 mesi lì una proposta sul tavolo di Monti, e la proposta chi lo sa meglio di Giavazzi, visto che l'ha studiata lui, e non si capisce che cosa si debba aspettare per fare una cosa che anche Confindustria vuole. Cioè, insomma, come dire, oh Monti, che stiamo facendo? Vabbè, ma vorrà lasciare qualcosa da fare anche il governo successivo. Certo, sì, ma sì, l'abbiamo nominato commissario, tanto a lavorare. Poi abbiamo il super commissario Bondi, il super commissario Amato, adesso arriva il commissario alla corruzione che c'era anche 2 anni fa, e va bene così allora, no? Direi di sì. Tra l'altro voglio dire, per quanto riguarda il governo successivo, mi sembra che ci siano anche delle novità riguardo al programma, no? Perché settimana scorsa Alfano diceva che quello che preoccupa è che la sinistra ha un'idea, ma è l'idea che a noi non piace, diceva lui, come a dire che loro l'idea non ce l'hanno, ma che si programmano, come dire, di essere con loro che avversano l'idea proposta dagli altri. Invece sembra che un'idea adesso ci sia, perché sentivo prima la registrazione che hai mandato in onda, sì. Cioè ha detto siamo contro ogni forma di accanimento terapeutico. Forse c'è una svolta, un'idea sui temi, c'è una svolta sul testamento biologico. Ma smettila, battutone di Bimbo Alieno in chiusura. Non ha pagato parte queste vacanze, se lei torna a dirlo si prenderà la querela anche lei, stia attento. Vi ricordo che oggi avremo alle 8:15 il sindaco di Verona, che è il segretario anche del Veneto della Lega, Flavio Tosi, per parlare di questa situazione politica un po' incerta, per usare un eufemismo, che riguarda la Lombardia, ma non solo, i rapporti tra Lega e PDL. E poi parleremo anche noi del caso del bambino contestato e conteso, per carità, qua non avremo spettacolarizzazioni, non avremo i genitori a parlare di questa vicenda avvenuta a Cittadella. Avremo il sindaco di Cittadella, avremo il presidente dei magistrati minorili in Italia, avremo anche l'onorevole Alessandra Mussolini, che è presidente della commissione infanzia. Di questo parleremo più avanti. Un video che sicuramente ha scioccato, leggevo oggi sui giornali, tra poco lo vedremo, sono già 1 milione di click su YouTube per vedere questo video. Avvenuto, registrato a Cittadella, ormai lo sapete, del bambino conteso e portato via dalla polizia per affidarlo al padre. Ora di che cosa parliamo? Ma certo, i giornali in edicola con la rassegna stampa. Anzi, bisognerebbe dire l'unica rassegna stampa radiofonica, l'unica esistente nel panorama radiofonico nazionale. Eccoci qua intanto con i titoli in questo lunedì 15 ottobre. Il Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì, apre con il nuovo fisco parte da casa e IRAP. Questo è il titolo di apertura, mentre il Corriere della Sera ha un'intervista a Roberto Formigoni: è sempre la Lega dei ribaltoni, così dice il presidente della Lombardia. La Stampa: Lombardia subito al voto. E poi Veltroni che abbandona il Parlamento, così aprono Repubblica, Veltroni addio al Parlamento, l'Unità, Veltroni non mi ricandido, Pubblico, vite non più parallele, c'è la foto di Veltroni e D'Alema in prima pagina, il Secolo XIX, l'addio di Veltroni scuote il PD, il Messaggero apre invece su il conto delle nuove tasse, il Giornale invece: sprecano ma non pagano, sono i debiti che hanno con le imprese le regioni italiane. Il Fatto Quotidiano invece, da oggi esce anche il lunedì. Il Fatto Quotidiano del lunedì apre con una notizia di politica: l'altra politica, 1 su 2 non voterà. È un sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani. Voglio partire da che cosa? Un articolo che trovate a pagina 8 sulla Stampa, la firma è Riccardo Arena. Ebbene sì, in Sicilia si vota, tra 2 settimane si vota. Cosa succede quando si vota, cari italiani? Lo sapete bene, partono le prebende. Sicilia, i soldi del governo per preparare le elezioni. Quel preparare è, tra virgolette, fondi a pioggia a chi protesta

tema di economia, il giornale oggi ha un'interessante apertura: sprecano ma non pagano, sono i debiti che le regioni hanno con le imprese. Le regioni, quelle che regalano soldi ai consiglieri per ostriche e champagne, titola in prima pagina il giornale, devono alle aziende 40 miliardi. Le più insolventi, sapete chi sono? Proprio Lazio e Campania. I commercianti alzano la voce, siamo al collasso. C'è anche un'intervista a Carlo Sangalli, il presidente di Confcommercio, a pagina 2. Siamo vicini al collasso, servono regole europee e una vera spending review. Ci sono gli sfoghi di imprenditori che dicono: ecco, noi aspettiamo 40 miliardi dalle imprese e invece loro sprecano tutto così. Che dire, cari ascoltatori, qui da legge ce ne sarebbe tantissimo, io salto qua e là, ma d'altronde mi devo barcamenare come si può col tempo a disposizione. Ho solo tempo per dire che, a proposito di tempo, arriva il maltempo, l'avete sentito in tutti i modi. Ragazzi, qui pare che Cleopatra a Roma, stia arrivando Cleopatra a Roma, pare una battuta di millenni fa, ma ci sono i sacchi di sabbia distribuiti nelle foto, ho visto sacchi di sabbia, sorvegliati i monumenti, pioggi forte, però le scuole sono aperte. Allora, se è una roba davvero così drammatica, non so, da sacchi di sabbia per difendersi da una guerra che ci porta a Cleopatra, perché le scuole sono aperte? Comunque staremo a vedere. Faccio anch'io l'appello che ha fatto la Protezione Civile, soprattutto ai cittadini di Roma: se avete delle commissioni non urgenti oggi, non fatele, non spostatevi, e spostatevi domani in attesa del diluvio universale. Evidentemente Roma aspettando il diluvio in camicetta e occhiali da sole, così titola anche La Stampa, mentre Il Messaggero: bufera sull'Italia, a Roma schierati 1300 uomini. Apre anche oggi il processo a Schettino, che sarà in aula, cioè il processo, c'è l'incidente probatorio per la tragedia della Costa, Grosseto, Schettino in aula per la maxi udienza, non potrà parlare, città blindata, alberghi esauriti, secondo il Secolo XIX, dov'è Schettino in questo momento? Forse in un agriturismo alle porte di Grosseto, secondo Paolo Crecchi del Secolo XIX, forse in un convento di frati, vai a saperlo. Schettino, il comandante. Oggi c'è con noi il sindaco di Verona, che è anche il segretario della Lega in Veneto, Flavio Tosi. Buongiorno. Buongiorno, sindaco. Sì, buongiorno a voi. Senti, i rapporti col PDL sono un po' ridotti ai minimi termini, mi sembra di capire. La vicenda Formigoni ne è l'emblema. Intanto lei è contento che si vada al voto? Questo ormai è deciso, pare. No, allora, diciamo che in condizioni diverse, ovvero sia, se fosse stato una situazione normale dove si andava al voto in Lombardia, perché magari Formigoni optava per una scelta romana, nazionale, e quindi si andava a chiudere quel patto antico che voleva il governatore di Veneto, Piemonte, Lombardia, la Lega, allora uno può dirsi contento di andare al voto. È chiaro che adesso ci si va per necessità, e quindi uno non è contento quando succede una disgrazia di quel genere, disgrazia dal punto di vista appunto di quello che è successo con quell'episodio dell'arresto dell'assessore regionale, sì. È un fatto di assoluta necessità, cioè, sarebbe difficile non andare al voto con una situazione così pesante. E sa oggi Formigoni cosa ha detto in un'intervista al Corriere della Sera, non so se l'ha già letta? Sono allibito e sconcertato, si conferma l'anima della Lega inaffidabile e ribaltonista. Lei come replica? Ma io ho letto l'intervista, secondo me Formigoni è una persona intelligente, quindi credo che lo faccia perché chiaramente deve sostenere una parte, capisce anche lui la pesantezza assoluta della situazione che si è venuta a creare in Lombardia. Cioè, come poteva pensare che un movimento come la Lega, radicato e rappresentativo, e che ha sempre fatto dell'onestà la sua bandiera, l'abbiamo dimostrato anche buttando fuori non solo chi è condannato o chi è inquisito, ma anche per chi ci fosse il minimo sospetto di determinate situazioni, la Lega l'ha allontanato proprio per rispetto agli elettori. Con una situazione come quella della Lombardia, con quello che è successo, era scontato che la Lega si comportasse in questo modo. Ma veramente Formigoni dice che due giorni fa Maroni aveva detto un'altra cosa, e questo, da lì nasce l'idea della Lega inaffidabile e ribaltonista. Maroni gli ha sempre detto che probabilmente Formigoni diciamo che ha frainteso il messaggio, ma non è che gli ha detto guarda che si va fino al 2015, gli ha detto che serviva comunque l'azzeramento della giunta, perché altrimenti probabilmente sarebbe stato anche sfiduciato. Cioè, con una situazione del genere un segnale di discontinuità lo devi dare già subito, ma che poi la Lega lo sostenesse fino al 2015 Maroni non gliel'ha mai detto, né mai gliel'avrebbe detto. E quindi insomma è stato un vertice nel quale un po' si sono frainteso, qualcuno ha frainteso qualcosa, lei dice Formigoni ha frainteso questa fiducia. Io con Maroni ti ho parlato e quindi con assoluta serenità so di poter dire questo, perché prima che si parlassero sapevo qual era la determinazione, e quindi è chiaro che Formigoni ad aver forse sperato di aver capito una cosa che non era. Senta, se lei fosse un cittadino lombardo oggi andrebbe a manifestare al Pirellone, c'è una manifestazione per dire Formigoni dimettiti, lei sarebbe no, in piazza? Diciamo che andare a manifestare, capisco che ci sia una manifestazione perché rispetto a quello che è accaduto è stata una cosa grave, cioè non è che sia una cosa leggera, all'arresto di un assessore regionale con un'accusa del genere è pesante, e quindi la manifestazione ci sta tutta, cioè non, sarebbe strano non ci fosse. Poi è chiaro che non è che io vado a manifestare contro un presidente di regione che noi abbiamo sostenuto e col quale abbiamo governato assieme, però ripeto, le motivazioni della manifestazione ci stanno tutte, è chiaro. Formigoni ha anche detto che a questo punto si ridiscute la questione Veneto e Piemonte, glielo chiedo soprattutto per il Veneto, cioè cade l'accordo politico e dunque anche il segretario PDL Giorgetti in Veneto pare abbia detto a questo punto cade anche il Veneto. Lei come vede questa posizione? Bah, io credo che sia una posizione di facciata, di bandiera, perché in realtà la possibilità che cada il Veneto dalle questioni lombarde è zero per due motivi. Uno, perché nessun consigliere regionale eletto, perché poi alla fine sono gli eletti che lo decidono, al di là che qualcuno dall'esterno dica, poi sono gli eletti che decidono, soprattutto nel PDL, in Lega il movimento ha un peso rispetto ai nostri eletti e giustamente c'è anche una disciplina legata al rispetto del movimento. Ma PDL, se di là fanno nel PDL oggi è un po' ognuno per sé, io per tutti, insomma, quindi con la situazione che hanno all'interno, se arrivasse un ordine di quel tipo lo disattenderebbero già proprio quasi per principio. E poi come fanno a spiegare ai cittadini veneti guardate andiamo a rivotare non perché Zai amministra male ma perché c'è casino in Lombardia? Sarebbe un suicidio politico. Cioè lei dice che se arrivasse anche l'ordine da Alfano o dal PDL fate cadere la giunta Zaia, siccome al PDL sono allo sbando nessuno o pochi seguirebbero? Sì, per due motivi, ripeto, sia perché sono allo sbando sia anche per senso di responsabilità, perché sanno che non sarebbe spiegabile a nessun cittadino una cosa del genere, cioè come gliela motivi. A proposito di future elezioni, ma cos'è questo modello Verona? Cioè il modello Verona è una lista, è lei candidato e una serie di liste che l'hanno appoggiata. Questo secondo Maroni è una soluzione buona anche per il futuro. È vero che lei sta pensando questo anche a livello nazionale per le politiche? Cioè, ci aiuta a capire cosa vuol dire? No, allora, al di là del fatto del mio nome, è il modello l'idea vincente. Cioè è chiaro che il mio nome è servito a Verona, io sono a Verona, il sindaco di Verona, è normale che si sia utilizzato il mio nominativo. A livello nazionale o comunque a livello più grande di Verona, in base alle necessità, è lo schema che funziona, cioè trovare un candidato che comunque abbia la credibilità di andare al di là dei voti della Lega e andare a prendere del consenso ulteriore e quindi avere i voti delle liste della Lega insieme ad altre liste che vadano a pescare il consenso nei confronti di persone che magari non voterebbero Lega ma hanno una gran visione comune con la Lega, perché la Lega ha delle idee che comunque sono condivisibili anche da chi magari non mette la croce sul simbolo, sì. E quindi con dei candidati di area, non necessariamente non solo centrodestra, che credano in questo tipo di disegno. Ma voglio dire, non è un qualcosa che fa concorrenza alla Lega in senso stretto, o no? No, perché qua a Verona abbiamo vinto col 57%. La Lega ha raccolto l'11, che è un punto in meno di quanto aveva preso alle elezioni precedenti, e è stato il comune fra i grandi comuni dove la Lega comunque ha raccolto di più, a Verona, in questa ultima tornata elettorale, e la mia civica ha preso il 37%, quindi non è, cioè, la Lega non avrebbe mai potuto prendere il 48%, cioè il 37 più 11. Il 37 serve appunto, appunto questo è il modello Verona di cui parla spesso Veroni, ma chi, i ma chi potrebbe della Lega più altri. Certo, ma chi potrebbe essere la persona che prende i voti per tutti a livello nazionale? Perché a livello Verona è lei, vabbè, sono l'amministratore locale, ma a livello, nazionale sia perché è il segretario federale, sia perché anche lui gode di stima trasversale, al di là anche dell'elettorato in senso stretto della Lega, Roberto Maroni è una figura che ha la capacità di attrarre elettori non solo leghisti, ma questo vale per Roberto Maroni, ma vale anche per Zaia, per Cotta, per figure che abbiano un profilo tale da raccogliere un consenso più ampio. Cioè potrebbe essere Maroni candidato, ma non so, Montezemolo si unisce a voi, faccio un nome a caso. Montezemolo può essere una di queste liste, perché per carità poi bisogna chiedere a loro, perché non sta a me, ma anche altre civiche che abbiano questo tipo di impostazione, non necessariamente Montezemolo. A Verona la civica ha raccolto esponenti di mondi diversi che si sono messi assieme per un programma preciso. Noi abbiamo un programma che è quello di Prima al Nord, il manifesto che è uscito dagli Stati Generali. Su quel programma puoi costruire una lista, un consenso. Dopo è chiaro che rispetto a queste politiche molto influisce anche la legge elettorale. Vedere che legge elettorale viene fuori e cosa ti consente di questo fare. Sì, l'ho sentito anche da un certo Oscar Giannino, questi discorsi che fa lei. Ma è perché probabilmente oggi in politica il meccanismo vincente è questo, cioè non è solo il simbolo del storico dei partiti, ma è anche andare appunto a raccogliere del consenso che vada oltre i partiti tradizionali, ma è anche normale che sia così. Cioè i partiti sono allo sfascio, un po' come... No, non è questione di sfascio, è questione che un partito da solo, nessun partito da solo oggi vince, vale per la Lega, vale per il PDL, vale per il PD, uno deve riuscire a creare un'aggregazione più ampia. Questo sì. La ringrazio intanto, buona giornata al Grazie sindaco a voi, buon lavoro, buona giornata. Di Verona, Flavio Tosi, segretario regionale della Lega. Che è stato con noi e oggi il meteo arriva a Cleopatra, tutti ad attendere Cleopatra con i sacchi di sabbia a Roma. Avete preso un bel sacco di sabbia? Vi prego, fatevi una foto con un sacco di sabbia e mandatecela a 24 mattino e tranne 24.it. Mandateci tutte le foto dei sacchi di sabbia che sta arrivando l'invasione di Cleopatra con non so, anche magari un esercito di egizi al seguito. Noi parleremo invece della vicenda del bambino, quello di Cittadella, strappato, lo sapete, 1 milione di click su quel video di YouTube, ne parleremo tra pochissimo, cosa vi suscita a distanza di qualche giorno, anche questi genitori, che litigano e basta. Allora, oggi leggo su Il Giornale che in 3 giorni è il video più visto, 1 milione di italiani hanno cliccato per vedere il video... Quello diventato famoso di cui sentite i suoni, no? Di questo bambino che a Cittadella settimana scorsa è stato strappato da scuola, portato via da scuola, perché bisognava eseguire un ordine del Tribunale di Venezia che affidava la potestà esclusiva al padre. È un video che, ripeto, ha fatto penso anche il giro del mondo e che ha suscitato dibattiti, discussioni. Un video certamente drammatico. Vogliamo parlare di un po' a freddo, senza spettacolarizzazioni, di quello che ha suscitato questa vicenda. Lo facciamo con l'onorevole Alessandra Mussolini, che saluto, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Lei presiede la commissione, tra l'altro, per l'infanzia in Parlamento. Saluto anche Luciano Spina, che è il presidente dell'Associazione dei Magistrati per i Minorenni in Italia. Buongiorno. Buongiorno a lei, benvenuto Spina. Senta Alessandra Mussolini, intanto io voglio fare una provocazione, ma non è che non si è abbastanza parlato delle colpe eventuali dei genitori in questa vicenda? Perché, ma insomma, guardi, qui l'unica vittima è il bambino. Questo certo. Le colpe dei genitori senz'altro ci sono, se no non si arriverebbe a questo. Ma la soluzione al problema, alla conflittualità che deve passare per altre vie, sicuramente non... per un sequestro quasi, prenderlo con violenza davanti a una scuola che deve essere un luogo protetto, poi soprattutto i bambini hanno i loro amici, hanno i loro pudori, si vergognano, immaginatevi quello che può succedere davanti ai compagni di scuola quando un bambino viene preso da chi? dalla polizia, tra l'altro dallo psichiatra, c'era anche il padre, sì, e portati in un luogo che lui non conosce, che non è una casa famiglia, perché la casa famiglia deve avere altri requisiti, quella non è una casa famiglia, ecco, è una struttura. Perché lei è andato a vedere anche il bambino in una struttura, cioè in questo momento non è col padre peraltro, no? Non è stato... No, in questo momento vede solo il padre, vede quindi solo è con il padre. Un bambino che non vede un genitore per tanti motivi, non stiamo qui a entrare, che poi ha una indigestione, diciamo così, vede solo un genitore e l'altro non lo vede più. Io credo che lo Stato debba esperire tantissime soluzioni prima di arrivare a prendere un bambino di peso, cioè questo non deve mai accadere, perché noi il bambino lo dobbiamo ascoltare, lo dice la legge, non è mai ascoltato il bambino durante i processi, non esiste l'avvocato del bambino, esistono gli avvocati degli adulti. Quando si vuole sentire un bambino si comincia a dire che viene viziato da questa sindrome che non esiste, la PAS, da alienazione parentale, sì, sì, e quindi il bambino non viene mai ascoltato. Il bambino è un oggetto, diciamo la verità. Viene trattato, sì, questa forse poi è stata la rappresentazione più plastica. Non ha i suoi giochi, sta con molti bambini, invece la casa famiglia deve avere al massimo fino a 5 bambini, con delle figure parentali, c'è una coppia con figli o meno, invece c'è una suora e 4 volontari, così. Insomma, però le chiedo questo, onorevole, perché lei in prima battuta aveva fatto anche delle critiche ai magistrati, qui l'ascolta il presidente dell'Associazione dei Magistrati per i Minorenni, Luciano Spina, aveva criticato quasi fosse il provvedimento, a me pare di capire che è stata la modalità dell'esecuzione di tutto. Il provvedimento addirittura è un provvedimento... a quello che si può leggere, che pone lasciamo perdere la patria potestà, ma non dice che la madre non deve più vedere il bambino, cioè lo Stato deve garantire la bigenitorialità. Se c'è stato un errore da parte di uno di entrambi i genitori, lo Stato non può perseguire lo stesso errore, cioè non si può escludere la figura materna, perché se il bambino in questo momento, come sta accadendo, vede solo il padre, si vede prelevato, allontanato dalla madre, significa che la madre è cattiva, diventa la strega, e poi bisognerà paradossalmente recuperare il rapporto con la madre. Pensate, sì, quanti shock a questo bambino. Dottor Spina, le chiedo questo, al di là del provvedimento che non è in discussione, nel senso che io non l'ho letto, non mi interessa, tutta questa vicenda è emersa nella sua verità, anche... In verità non lo conosco neanche. No, ma infatti nel suo interesse mediatico è emersa la vicenda per il suo epilogo, diciamo, perché provvedimenti del genere, immagino ce ne siano tanti in Italia, in cui si dice un bambino deve essere affidato, in base a delle perizie, a tutto quello che viene fatto, deve essere affidato ad uno dei genitori in via esclusiva. Però che effetto le fa? Sicuramente, come dice Alessandra Mussolini, il bambino è vittima di tutta questa situazione. Dal punto di vista dei magistrati, però, come avete vissuto tutta questa situazione e queste giornate? Devo dire che le parole dell'onorevole Mussolini fino a questo momento sono le mie stesse parole, cioè le sottoscrivo appieno, completamente. Credo che c'è una sensibilità comune su questa vicenda, forse anche nelle ultime cose che ha detto in relazione alla necessità di non rompere il legame che esiste, anche se patologico, con una delle due figure genitoriali, cioè in questo caso sembra appunto, da quello che si dice, quella materna, ecco, insomma, non si può arrivare a una definitiva esclusione se è stato fatto, insomma, ecco. Ma come ci può spiegare come si sia potuta generare una situazione del genere, cioè da un provvedimento, cioè un ordine, un provvedimento da eseguire, davvero si può arrivare a una situazione del genere, oppure c'è un margine per cui gli operatori, quelli che intervengono per eseguire il provvedimento, si rendono conto che la situazione sta degenerando, come in questo caso, e possono anche fermarsi? È possibile questa cosa? Certo, credo che appunto, come è stato giustamente sottolineato, in questo caso il problema non è il provvedimento in sé, ma le sue modalità esecutive. Del resto questo è stato riconosciuto in maniera molto onesta, esemplare, anche insomma dal capo della polizia, del sottosegretario all'interno, che hanno immediatamente dopo questa, diciamo, vicenda presentato le loro scuse ai familiari e al bambino. Il problema fondamentale nella esecuzione dei provvedimenti dei giudici della famiglia dei giudici signorili è costituito dal fatto che purtroppo diciamo non esiste una disciplina specifica, no, dell'esercizio di queste modalità di esecuzione, tant'è vero insomma che all'interno degli esperti di questa materia si parla di una giungla che è incredibile, visto che abbiamo a che fare con dei bambini, cioè le persone che dovrebbero essere tutelate di più rispetto a tutti devono essere tutelati, ma se c'è un se c'è qualcuno che deve essere tutelato di più è il bambino, no? Esatto, sì. Diciamo le ipotesi che si fanno in questa materia in via interpretativa sono almeno quattro, cioè dalla necessità, cioè dalla possibilità che il provvedimento venga eseguito soltanto dai servizi delle forze di polizia, dalla possibilità che il provvedimento venga eseguito nella sua fase esecutiva dal giudice tutelare o dal pubblico ministero o dallo stesso giudice che ha emanato il provvedimento. Quindi, come vedete, diciamo, il panorama è abbastanza ampio e difficile. Per questo nel comunicato che noi abbiamo emesso subito dopo questa triste vicenda abbiamo anche segnalato al legislatore e spero insomma ecco che la presenza dell'onorevole Mussolini possa essere utile in questa nostra segnalazione Mettere ordine su questo. A mettere ordine, sì, c'è da dire che adesso a livello parlamentare, non so, onorevole Mussolini, a livello parlamentare c'è purtroppo il caos, nel senso perché già c'è il caos normalmente e purtroppo i bambini non votano, non hanno neanche i sindacati, quindi questa è una provocazione ma è la realtà. Io concordo assolutamente con quanto detto, cioè ci sono varie soluzioni per arrivare a una un prelievo in questo modo così violento, così traumatico anche per il bambino che non comprende quello che comprendiamo noi. E tra le altre cose io credo anche, avendo visitato questo istituto, e non voglio entrare e aggiungere polemica a polemica, ma è un istituto estremamente, una struttura mediocre, anche un po' andata dal punto di vista proprio non è adeguato, addirittura dell'igiene. Ma scusi, io guardi, una cosa che lasciamo perdere, cioè se tu prendi un bambino, un conto è metterli in una struttura protetta quando in famiglia ci sono abusi, violenze, casi di pedofilia, droga, ma io sono d'accordissimo l'allontanamento per proteggere il bambino, ma quando c'è una famiglia sostanzialmente normale, ora se poi vogliamo considerare normale due persone che hanno una conflittualità esasperata, ma dove non c'è abuso sul minore, l'ultima soluzione è quella di metterlo in questo in istituti di questo tipo che dovevano essere superati e che sono superati dalla legge ma che non lo sono, perché questo non si può definire una casa famiglia. Ecco, l'appello che io faccio alla magistratura e anche quella che abbiamo inserito nella convenzione di Lanzarote che abbiamo approvato, dove c'è scritto che bisogna ascoltare un bambino, cioè controllare anche le strutture dove vengono messi questi poveri bambini, perché questa non è una struttura adeguata. Non so chi gli ha dato la convenzione, il comune, la regione ha delle norme, ma se tu prendi un bambino, lo strappi ad un nucleo familiare, alla sua casa che ha, che non ha perso, che ha, e lo metti in una struttura sommaria dove c'è una suora che ha 70 anni, che può fare quello che può fare, e quattro volontari che si turnano, quindi neanche e lo sa il magistrato, dovrebbe esserci nella casa famiglia un padre e una madre con o senza prole, massimo 5 bambini, cioè dei requisiti da 0 a 10 anni, invece lì ce ne sono molti di più, l'età varia. Quindi io non credo che queste siano delle soluzioni adeguate per questi casi, non possono accadere. Una soluzione quasi peggio di quella della situazione che si vuole sanare, lei dice. Ringrazio, so che Alessandra Mussolini ci ha lasciato con qualche minuto d'anticipo per impegni, con noi c'è Luciano Spina che è il presidente dell'Associazione dei Magistrati per i Minorenni e saluto anche, ci ha raggiunto il sindaco di Cittadella, Giuseppe Pan. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei, sindaco. Radio Telespettatori. Del luogo dove è avvenuta questa vicenda. Fatemi dare un ascoltatore che ci ha chiamato all'800240024, Alessandro dalla provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno dottor Milan, buongiorno dottor Spina e sindaco. E io ho telefonato per dire questo, dunque nella vicenda io faccio il giudice onorario in un tribunale per i minorenni, quindi sono abbastanza esperto della vicenda perché ne vedo veramente tante. E secondo me, al di là del fatto che l'allontanamento è stato fatto, e qui siamo tutti d'accordo, mi sembra di capire, con modalità estreme che sicuramente vanno criticate, e ci sta bene. Però la motivazione alla base del provvedimento non si può liquidare dicendo semplicemente che la PAF non esiste, perché questo... Ci sono tantissimi detrattori che si basano sulla critica. Sì, la PAS, la figura... spieghiamo cos'è la PAS, questa sindrome, io non è che sono esperto, cos'è la PAS? È una malattia psicologica, sì, è una sindrome. Una sindrome vuol dire che ci sono una serie di sintomi messi insieme che descrivono uno stato comportamentale, diciamo, disorganizzato da parte di un bambino e che si orienta principalmente su una delle due figure genitoriali e non sull'altra. Sì, però Alessandro, mi scusi, questo lei giustamente dice questa sindrome esiste, siccome è stata messa in dubbio, ma secondo me, cioè, capisce che non è neanche questo il problema. Al di là del fatto che lei difende esiste questa sindrome, l'epilogo di questa vicenda, lei da giudice onorario che vede queste situazioni, è davvero stato un unicum o succede spesso? No, succede spesso, solo che questa volta è stato, diciamo... C'era la telecamera. È stata messa in evidenza, sì, è stata messa in evidenza la parte più brutta del provvedimento. In realtà la mamma deve essere, nei provvedimenti come questo, la mamma viene mantenuta nei colloqui con il bambino, solo che sono incontri protetti in cui vigilare, diciamo, il rapporto senza romperlo. Sì, sì. Però il fatto che il bambino debba andare in una struttura, anche qui non sto a discriminare che tipo, sì, di struttura, sì, certo è la migliore possibile, neutra per tutti e due i genitori, serve così, proprio per deprogrammarlo di fronte a un genitore, per riequilibrare il rapporto. Capisce con che, entrambi. Che parola ha usato? Deprogrammarlo. Già questo mi spaventa molto, ma capisco che... Ne capisco il senso, ecco, ma mi spaventa molto questa idea del deprogrammarlo rispetto a un genitore di fronte a questa sindrome. Sindaco Pan, qual è la situazione? Cioè, a Cittadella vi aspettavate una cosa del genere? Perché si parlava addirittura di ronde, cioè nel senso di ronde che c'era queste zie, queste che controllavano la scuola perché si temeva che prima o poi una situazione del genere potesse accadere. Sì, buongiorno. Sì, è una situazione che si è creata, sinceramente non ce l'aspettava nessuno, perché chi è che si poteva sapere che c'era una situazione del genere nei rapporti tra moglie e marito, che poi penso che abbiamo tutti l'esperienza di amici, parenti, e quando si rompe un matrimonio purtroppo poi le situazioni vanno come vanno. Il problema è stato quello... questa introduzione nella scuola, che secondo me è stato un episodio sgradevole e quanto mai da rivedere anche nelle procedure. Lei non gradisce il fatto, da sindaco, che in una scuola avvenga tutto questo? No, assolutamente. Penso che un po' tutti, ecco, quello che ha disturbato diciamo le mamme, e penso anche comunque alla nostra popolazione, si è dato proprio quello, cioè che si è andato a prelevare un bimbo in un ambiente protetto dove ci sono gli educatori, ci sono altri bambini, dove comunque i bambini e tutti, anche i cittadini, si sentono che mettere i loro figli lì è un momento di sicurezza, di protezione. Diciamo, quello che ha sconvolto è stato un po' tutto questa balada che anche i bambini sono trovati, ecco, sindaco, vogliamo scioccati. Vogliamo chiederlo al presidente dell'associazione dei magistrati minorili, dottor Spina, al di là del provvedimento in sé, perché la scuola può essere identificata come un ambiente neutro, dove in realtà forse neutro non lo è, dice il sindaco, anzi dovrebbe essere un ambiente protetto per eseguire queste cose, certo, quindi per non eseguirle. Esistono infatti anche delle strutture proprio che si chiamano spazi neutri, che sono dei servizi di ultima generazione all'interno, sì, dei servizi a favore della, ecco, ma perché che vengono spesso utilizzati. Ma prima ancora direi che l'allontanamento in sé da uno dei genitori, anche proprio la possibilità attraverso questi spazi neutri di riavviare, ecco, delle relazioni che non ci sono, o cercare di indirizzarle in maniera più positiva quando queste relazioni sono distorte, ecco, cioè tutta la fase, se vogliamo, preliminare di preparazione, che potrebbe anche come dire sì, però se il bambino si rifiuta di uscire da una casa, cioè quello che dice il sindaco è perché si è stato preso in una scuola, È una cosa che, cioè, nel provvedimento, nei provvedimenti in generale, si scrive anche si vada a prenderlo in una scuola oppure lo si vada a prendere? Da quello che ho letto, cioè da quello che ho letto dalla stampa, dalle notizie, sì. non si faceva riferimento espressamente alla scuola, cioè si parlava di modalità. Si diceva che bisognava farlo, con le modalità più rispettose dei diritti del minore. Insomma. Questo, diciamo, sicuramente mette in gioco anche, come abbiamo ricordato anche nel nostro comunicato, insomma, la necessità di avere degli operatori formati anche nella fase esecutiva, degli formati e specializzati ad eseguire questo genere di provvedimenti. Probabilmente in questo caso è mancato, diciamo, questo tipo di equipe formata, specializzata e attenta. No, attenta anche al fatto che, insomma, laddove, come insomma si è capito, insomma, sono sorte delle gravi difficoltà con anche contingente. Certamente l'ambiente scolastico in questo caso non era il più idoneo. Sindaco, io 30 secondi per chiudere. Mi dice, secondo lei, di chi sono le responsabilità, da amministratore che ha visto di più, delle forze dell'ordine, dei genitori stessi, di chi ha creato questo caso, di chi? Guardi, le responsabilità sono un po' di tutti gli adulti, io penso. In primis, io penso che i genitori andavano d'accordo anche separandosi in altra maniera, purtroppo le forze dell'ordine hanno eseguito degli ordini, i magistrati hanno emesso le loro cose, diciamo che ci spartiamo un po' tutti il male di questa faccenda. Il problema è, io ripeto, quello di che queste questioni, che purtroppo sono inevitabili nelle famiglie, vengano comunque risolte in altri spazi, lontano dalle scuole, lontano dagli altri figli. No, ma certo, ma questa della scuola effettivamente questa sì. Io mi devo fermare qui, vi ringrazio sia Luciano Spina che Giuseppe Pane, il sindaco di Cittadella, e Alessandra Mussolini che ci ha lasciato qualche minuto prima. Con Miriam Lucchetti in redazione, Alessandro Longoni in redazione, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro Filippo Aureggi oggi in regia. Abbiamo rottamato l'Alpino, ci ritroviamo domattina alle 6:30.